Che c'è una monetina? C'è una monetina, ce l'hai la monetina? Luna marinara, l'amore è bello ma non si impara. Che c'è una monetina? Ce l'hai la monetina? Dormo nel giardino di questo palazzo. Non lo dite alla portiera, perché se mi vede mi caccia via, cazzo. Dormo proprio dietro alla statua della Madonnina, buttata là, mezza dimenticata. Parla da sola. La solitudine. Se avete paura della solitudine, non vi sposate. Luna marinara, l'amore è bello ma non si impara. Nel palazzo di questo condominio, al quinto piano ci abita una signora molto snob e il suo cagnolino, un bastardo. Fuffi. Al quarto piano un frocio. Voi come lo chiamate? Io lo chiamo frocio. Al quarto piano una coppia. Adele e Gualtiero sanno sempre a litigare. Forse ricordano. Al secondo piano una zoccola. Voi come la chiamate? Io la chiamo zoccola. Al primo piano un cinese. Entra, esce, entra, esce. Potrebbero essere pure 2000. Sono tutti uguali. Al piano terra 74 bengalesi. In due camere. Puzzano. Mamma mia, puzzano più di me. Vi giuro, E ce ne vuole. Al seminterrato ci vive la vecchia. La portiera. Romeo! Stanno a chiamare il gatto. Romeo! Miau! Miau! Romeo, Miau! Stanno a chiamare Romeo. È uno del condominio. Se pensano che è il gatto. Sì, sì, sì, che gatto è ancora vivo. Invece è morto. Ma sono magnato. Così che faccio, perché io sono furbo. È la notte miagolo. Miau! Ma il giorno i condomini mi portano i croccantini, eccoli, questi sono, pollo, riso e vitamine, minerali e olive aggiunte, ci sono pure olive, pensa tu, buoni i croccantini, buoni, che prelibatezza, che non ti piace, no? Ma perché tu te pensi di mangiare meglio dei gatti? Luna marinara, l'amore è bello ma non si impara. Come ti chiami? Come ti chiami? Federico. E Federico. Bene, io invece mi chiamo Edmondo Torlonia Aldo Brandini. Un tempo le ville di Roma erano tutte mie. Stavo sempre a passeggiare. Un mar di piedi, cazzo. Vivevo in un castello marcondirondirondello. Tanti pensano che noi barboni siamo ricchi. Così non hanno nessun senso di colpa non darci manco una monetina, cazzo. Io ricco lo ero. La mia famiglia è un vitigno e io bevo solo vino d'occa. Adesso sto tutto il giorno in giro. Vado dove vado. Guardo la gente in faccia. Ho tempo e posso permettermelo. È un lusso. Nessuno mi corre dietro. Nessuno mi aspetta. Nessuno mi pensa. Nessuno. Nessuno mi dice... L'hai pagato l'IMU? Nessuno, cazzi vostra. Buono, buono il tavernello. Tavernello doc. Sono tanti anni che dormo da ste parti, Conosco tutti. O vedi quello? Quello è un architetto. Quello vedi? Quello è un impiegato. Quello invece è lo scuregione. Quello invece è un'infermiera. Carina, Cazzo, proprio carina. Ieri mi ha guardato. Molla invita a mangiare a Caritas. Magari ci viene. Magari. Magari mi dà un bacio. Senti un po', vieni qua tu. Tu sei un dottore? Quanto guadagni? Lo vuoi un po' di tavernello? Anch'io guadagnavo tanto, Sì, sì. Signora, lei è sposata? Sì, Anch'io ero sposato. L'amavo. L'amavo tanto più di ogni altra cosa al mondo, più del tavernello. Poi l'amore è morto. Poi è morta pure lei. Poi è morto mio suocero. E il fratello del mio suocero, l'unica viva, indovinate chi è? Mia suocera, che mi ha cacciato di casa, cazzo. Adesso sto con Vincenzina. Barbona pure lei. Quando ci incontriamo io la guardo e faccio... Lei mi guarda e fa... Meno male che c'è Vincenzina. La gente è così sola. Luna marinara, l'amore è bello, ma non si impara. Signora, l'orologio ce l'ho, sa, ma non lo porto. Pesa. Il cellulare pure ce l'ho, ma non ci sono per nessuno. Il giornale pure ce l'ho, eccolo. È sempre lo stesso, come le notizie. E poi, sai, io mi affeziono alle cose. Oggi mi sento un uccello e guardo tutto il giorno il cielo. Ieri, invece, mi sentivo una merda. Una merda, cazzo, puzzavo. E mi sono lavato, eh. Ma lo sai che più te lavi e più puzzi? Infatti voi puzzate. Ma che vi siete bevuti? Il vino? Il tavernello, il mio? Pure voi, no, eh? No, no, no, no. Bisogna stare attenti alla gente. Perché qualcuno è stronzo e qualcuno no. Lo stronzo non saluta e non sorride. L'altro sorride. E sorridere a qualcuno è come fare un'elemosina. Che fai? Sorridi, eh? Sorridi? Ma che cazzo te sorridi? Ma che fa? Ma chi te conosce? Ma dammi una monetina, dammi, cazzo. Sono un barbone, scemo, sono un poraccio. Ma che non lo vedi? Luna marinara, l'amore è bello, ma non si impara. Perché sono diventato un barbone? Sono diventato barbone perché forse perché non sono in grado di affrontare i problemi della vita. Forse perché adesso ho tutto quello che mi mancava. Forse perché mi hanno rubato la dentiera. Forse perché ho avuto una grande delusione. Forse perché tutto è cominciato con il bere. E perché ho cominciato a bere? Forse perché ho avuto una grande delusione. Forse perché il sogno è bello in solitudine. Forse perché non ho più desideri. Forse perché semplicemente mi manca una rotella. Forse perché ora ho il tempo di scrivere una poesia. Forse. Forse perché non esisto. Ecco perché. Non esisto, non esisto per nessuno. Ehi, sono qui. Mi vedi? Sono qui. Non mi vede. Non mi vede. Sono trasparente allora. Trasparente come l'acqua. L'acqua, poesia. Aspetta che prendo il taccuino e la scrivo. Allora, aiutatemi, eh. Sorge il sole sulle acque sorgive e sulle sue rive sorge il sole sulle acque sorgive e sulle sue rive sorche. Sì. Luna marinara, l'amore è bello ma non si impara. Un giorno io e Vincenzina ci sposeremo. Sai che puzza? Tavernello per tutti. Nessuno si salva da solo. Luna marinara, l'amore è bello, ma non si impara. Agata? Agata, che fai, scenni? E perché non rispondi? Stai al cellulare? Ormai tra cellulare e computer non te si vede tutto il giorno. Agata, mi metti il vestito leopardato, che dici, con questo acchiappo? Ci faccio sempre un sacco di sordi. So stupenda, eh? Che ne dici? Agata! Stasera mi metto pure gli orecchini pagliettati. E dove stanno, eccoli? Che con le luci delle macchine sbrilluccicano. So favolosa, lei. Ando sta spazzola, fammi una pettinata. Ti è, guarda, sti capelli tutti bruciati. Gli devo dare una spuntatina. Agata, io so pronta. Ando stanno le scarpe? Eccole. E boa rosso? Ecco la sua sedia. No, non lo trovo mai, non lo trovo. Speriamo che stasera passa il parlamentare. quello mi risolve la serata, anzi, a mesata con tutti i soldi che si guadagnano. Speriamo che noi abbassano lo stipendio. La borsetta che fine ha fatto? Ah, eccola. Agata, vabbè, io scendo. Mamma mia, che serataccia. Agata, ma che sta a fare la seduta? Oddio, ma sei Agata? Scusa, t'avevo scambiato per quella gran mignotta da amica mia. Amore, senti un po', vieni qua. Ti piacciono le palle? Ti piacciono? Ma dove sta a guardare? Oh, mamma mia, guarda. Ma che è stasera? Amore, tu invece come ti chiami? Come ti chiami? Fabio. Ti piace il vestito che porto? Come me butta? Me butta bene? E io ti piaccio? No, per niente, neanche un pochetto. Ma va a morire ammazzato. Invece, tu come ti chiami? Ettore, come sei affascinante, come sei attraente. Non ho mai conosciuto un uomo così simpatico, intelligente. Insomma, non c'ho tempo da perdere, ci vuoi venire con me? No, va a morire ammazzato pure te. Ma che è? È una sedrataccia proprio, non si fa una lira. Tu che c'hai da guardare? Che c'hai da guardare, fanatica? Ma che te credi di essere meglio di me? Mo te do una borsettata che te cambi connotati, e te faccio pure un piacere. Scusa bella, ti posso fare una domanda pure a te? Che cos'è per te una puttana? Puttana è una donna che fa molto sesso? Sì, allora pure tu sei un po' puttana, un pochino, ma sempre puttana. Amore, senti un po', ma tu no, ci sei mai stato con una puttana? No, Ma perché se ci fossi stato me l'avresti detto? No, l'omini, L'omini sono più puttane delle puttane. Guarda quell'altra là, che scollatura. Certo, chi non mostra non vende. E quell'altra? Mamma, quanto è truccata, mi sembra Moro Orfei. E di grido stanno, Te sei magnate. Bene, dovete andare. Qui ce lavoro io. Donne tante, uomini pochi. E quelli che ci stanno, ti raccomando, guarda quello. Ma come te sei vestito? Ma che aspettati, sardi dove esse? Io ti capisco, perché i sordi ce vonno e io ne guadagno sempre tanti. Non guarda stasera che qui è un gran puttanaio. I sordi ce vonno, ma io li spenno tutti. Li butto dalla finestra, sono fatta così. Sono piena di sensi di colpa, dei problemi, dei paure. Scusate, vi dispiace se mi siete un attimo qui con voi? Stiamo un po' insieme, ci famo una chiacchierata, Sono tanto stanca. È tutto il giorno che sto in piedi. E in ginocchio. Che te ridi, a stronzo, non è una battuta. Che stava a di? Boh, vabbè. Ah, adesso mi passa a prendere. Come posso definire? Il mio compagno. Mi rispetta, Non mi ha mai picchiata. Solo una volta ha tentato di strangolarmi. L'ha fatto perché è geloso. Me vuole un bene. Mi porta sempre a lavorare con la macchina. E poi mi viene pure a riprendere. E i fine settimana mi porta a mangiare i castelli. Quanto mi diverto. Una volta mi ha recitato pure una poesia. Chissà dove cazzo ha letta. E poi mi fa sempre regali. Tanti regali costosi. Coi sordi mia. Che stava a dire? Boh. Vabbè. Ah. Se c'ho paura. E di che? Degli extracomunitari? Dei balordi del sabato sera? Desaggredita, derubata, stuprata? No. Non c'ho paura. Di che c'ho paura? Di star da sola. Di non avere qualcuno a cui pensare. O qualcuno che mi pensa. C'ho paura di amare. Perché? Perché non sono mai stata amata. Scusate, rimanete in linea, Non andate via, non è successo nulla. No, non vi spaventate, no, non andate via. Ecco, adesso faccio subito un personaggio divertente. Sì, mi cambio subito, in un attimo. Un personaggio pieno di battute. Sta puttana non la dovevo fare. No, è troppo seria, ho sbagliato, ho fatto uno scivolone, perché io lo so, la gente vuole ridere, spensieratamente. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, Faride. Buonasera. Buonasera, buonasera. Io sono Cinciu Wang. Sono Cinciu Wang, ma gli amici mi chiamano Nello. Ah, oh? Mi sono teclato in Italia. Ammazza se mi sono teclato. Nel condominio sono tutti gentili con me, ma io non saluto nessuno. Vivo a Roma da 4 generazioni. Ah, oh? Ho comprato tutte le sale bingo della capitale, i portici di Piazza Vittorio, e mi sto per comprare il Colosseo e il lungomare di Ostia. Sto in trattativa. Però il mio desiderio più grande, il sogno mio più bello, è aprire una pizzeria. Mi piace la pizza con i fiori di zucca, salsiccia e broccoletti, paghiro e bufala. Buona! Gli involtini primavera, che se li mangiassero gli italiani. Au! E così ho aperto a malincuore un ristorante cinese. Perché se aprivo una pizzeria, gli italiani non ci sarebbero venuti. E l'ho dovuto alledare le con sedie cinesi, tavoli cinesi, lampade cinesi. Mica roba originale, tutta cinese. Dopo un po' di tempo ho aggiornato l'insegna. Ristorante cinese e giapponese. Ristorante cinese, giapponese, mongolo. E poi ristorante cinese, giapponese, mongolo, thailandese. Dopo un altro po' di tempo, ristorante cinese, giapponese, mongolo, thailandese, goda la vaccinara. Dopo un altro po' di tempo ho scritto ristorante cinese, giapponese, mongolo, thailandese, goda la vaccinara e pizzeria. Ce l'ho fatta! Ah, oh! Buona, buona, buona, buona pizza. Il gelato fritto, mangiatevelo voi. A me mi fa schifo. Au, se venite vi consiglio il tiramisù fatto a mano da mia moglie, integrata pure lei. Che volete? La grappa de rose? Meglio un bicchiere de vin santo con i cantucci. Buoni i cantucci. Fatti a mano, naturalmente, da mia sorella, integrata pure lei. Au. Siamo tra i popoli più numerosi della terra. La parola solitudine non la conosciamo e forse non esiste neanche sul nostro vocabolario. Ma io sono cittadino italiano, sonnello, son teclato. Ammazza se me son teclato. Ah, oh! Agata, ti sei svegliata? Ho incontrato il cinese e mi ha regalato un dolce. Il tiramisù, buono. E il bengalese, una rosa. Che so, proposte di matrimonio? A sto condominio c'è sta un po' di tutto, eh. Pure le puttane. Agata, lo ammetto, oggi so di buon umore. Tocca essere positivi nella vita. Una si sente meno sola. C'è sempre il sole al di là delle nuvole. De chi è sta frase? Boh. A proposito del sole, la coppia del terzo piano, quelli, il sole, non lo vedono mai. Quanto litigano. Li senti? Che cosa prevedo per il loro futuro? Le prossime 2 settimane sono caratterizzate da cielo per lo più grigio e nebbioso, con violenti temporali sparsi. Non sono previsti miglioramenti per gli altri 6 mesi. Che se sono sposati a fa? Pesta peggio di prima? A volte l'amore è un aggancio nevrotico. Agata! Agata! Mando cazzo stai! Amore? Dici a me? Aleo, aleo. Mamma, papà. Monica, piccola mia, perché non vai a letto? Che mamma deve parlare con il tuo papà. Dove sta? Monica, vieni qui, che papà te dà la caramella. Aleo, aleo, caramella. Amore, a che pensi? A che devo pensare? Mi ami? A che te amo? Bene, allora parliamo di questo amore. M'ha fregato un'altra volta. L'amore, Gualtiero, è come una pianta. Va annaffiata, perché in caso contrario... S'ammoscia. Aleo, caramella. Monica, sta zitta. Gualtiero, non abbiamo mai parlato... Come non abbiamo mai parlato? Parliamo sempre dei Totti, dello stadio, della magica Roma. No, di noi. Ari, dai. Sono 6 anni che siamo sposati. Non so, 25. Ma che amore è, Gualtiero, se non siamo disposti ad ascoltare? Stare insieme è un'opportunità che abbiamo per essere migliori, ma ognuno resta chiuso nella sua solitudine. Gualtiero! Tu la domenica vai sempre allo stadio, io che faccio? Beata a te, te riposi. Riposo? Devi pulire la casa, devo pulire la casa, fare la spesa, cucinare, mai un pensiero gentile, mai un ti amo. Ti amo. Basta! Adele, non urlare che spaventi la bambina. Aleo, caramella. Monica, piccola mia, vuoi venire domani con la mamma a fare shopping? No, esco con papà. Andiamo allo stadio, gioca a Roma. Gualtiero? Adele? La bambina deve giocare con le bambole. È una femminuccia. Non è che ha questo vocione perché si sente un maschietto? No, no, perché fume goluas. Sei un irresponsabile. Ha soltanto 4 anni. Quasi 5. Aleo, caramella, senza filtro. Io non ho nessun problema, se si sente un maschietto. Le differenze vanno accettate, i diritti sono uguali per tutti. Ma che sei da Lazio? Visto che siamo in tema, amore, devi sapere che quando ero giovane sono stata corteggiata da una donna. Le piacevo molto. C'ha un bel culo. Cretino. Alta, mora, 2 occhi. Ce l'ha ancora il numero? Gualtiero, sei veramente uno stronzo. Aleo, carabella, mi vai a cedi? Se è per questo anch'io, quando ero giovane, sono stato con un ragazzo. Stato? Ah sì? Ah sì? Ci sono stato insieme 2 anni. 2 anni? 2 anni? Ci siamo conosciuti il 16 aprile del 2000, alla fermata dell'autobus, alle 20:30. Alle 20:30? Ma come? Di me a volte... Non ti ricordi neanche come mi chiamo? Pioveva. Io non c'avevo l'ombrello. Allora lui mi ha riparato con il suo. Poi, senza parlare... Ci siamo incamminati verso il nostro destino, avvolti da una nebbia sottile che nascondeva, complice, i nostri cuori. Non ridete che si è messa male, Gualtiero? Gualtiero, sai che cosa ti dico? Sai che cosa ti dico? Omosessuale! Non dire questa parola davanti alla bambina. Afrocio! Fai un caffè, che me devo fumare a caramella. Aleo, aleo. Ma quanto mi piace, con te litigare per poi fare pace. Lo sai che i tuoi baci mi piacciono sempre. Buonasera, buonasera, buonasera, sì sì. Sono Francesco, l'inquilino del 4° piano. Ho portato i croccantini a Romeo. Micio, micio, micio, quanti ne mangia. Ho anche un regalo per Edmondo. Shhh, Luna Marinara. E uno per la portiera, che si sente così sola. Non la conoscete, ma la conoscerete. Ho comprato anche una parrucca per Agata. Come gli sta bene. Invece al cinese non gli ho comprato proprio nulla. Perché non mi saluta. Neanche quella dell'ultimo piano. Beh, c'ha avuto quella storiaccia col marito. L'ha lasciata. Eppure il suo cane non mi saluta. Chissà perché. Lo so io perché. Perché io sono... perché sono un po' così, ecco. Ma a me vado bene come sono, perché sono me stesso e sono felice di essere me stesso, sì, sì. Bubù, sette de... Che ti sei spaventato? Uno un po' così non dovrebbe far paura, come una volta faceva paura ai bambini l'uomo nero, che tra l'altro a me l'uomo nero mica mamma ha fatto paura. Anzi... sì, sì. E poi essere un po' così, siamo in tanti, stilisti, cantanti, attori, calciatori. Calciatori. Quelli non l'ammettono, Semmai simulano il fallo da dietro. Oh, sì, sì. Di quelli un po' così poi ne esistono di varie categorie, Seguitemi bene. Quelli che lo sono e non se ne vergognano, anche se non si vede. E non sono io. Poi ci sono quelli che lo sono, ma non lo dicono. Vabbè, lasciamo sta, che non mi vada sta sputtana a mezzo teatro. Poi ci sono quelli che assolutamente non lo sono, ma devono far finta di esserlo. I commessi della Rinascente, sì sì, è compresa la faccenda, Poi ci sono quelli che lo sono, però non lo sanno. I sette nani, certo, scusate, ma una vita nel bosco da soli, sette nane... Sì, sì, infatti, quando Biancaneve gli ebbe un bollo improvviso dentro casa, loro dicevano che erano contenti, invece non la sopportavano proprio. Infatti, si sono messi d'accordo con la strega e l'hanno fatta fuori. Poi è arrivato il principe alto, biondo, con un cavallo bianco. I naneti tutti ringalluzziti, ma il principe ha dato un bacio alla gatta morta e l'ha resuscitata. I sette nani quanto ci sono rimasti male, hanno rosicato proprio tanto. Non sono andati manco al matrimonio. Sì, sì. In ultimo ci sono quelli che lo sanno tutti, perché è evidente, tranne i loro genitori. E quello sono io. Sì, sì. Faccio un esempio. Ieri stavo a pranzo dai miei, mamma mi telefona. Come al solito, prima che arriva a casa e mi dice «Mi compri tre salsicce, la trippa, il guanciale per la carbonara?» «Certo, mamma, sto arrivando, ma prima passa la Rinascente». Non si sa mai. Sì, sì. A pranzo loro mangiavano le frattaglie. Io mangiavo salmone, come Jennifer Lopez. Ah, come faccio a sapere che Jennifer Lopez mangia solo salmone? Ma scusa, per avere quel sedere lì, l'unica andà per fiumi e mettese controcorrente a pescare salmoni. A pranzo, insomma, mentre prendevo un pezzettino di pane, mio padre, mi dà uno schiaffo sulla mano e poi mi guarda negli occhi. E dopo una lunga pausa mi dice, tutte le sere, che fai? Papà, la sera sto al bar con amici, parliamo di carcio, di donne. C'è qualcosa di te che mi sfugge. Beh, papà, che te devo dire? È che ultimamente, papà, voglio essere me stesso. Sì, vivo di esperienze profondamente metafisiche. Ho un'irrefrenabile esigenza di farmi trasportare dal vento di qua e di là, in una realtà parallela dove sono sospeso come una divina creatura, unica e irripetibile. Papà! Papà? Papà! È svenuto papà. Gli succede sempre quando c'ha dei forti dispiaceri. L'ultima volta è stata quando ai mondiali l'Italia ha perso 4-0. Sì, sì. Vabbè, concludendo, vorrei rassicurare prima di tutto mio padre e poi mia madre, ma vorrei veramente rassicurare tutti, scrittori, giornalisti, astronauti, antropologhi, architetti, impiegati, spogliarelliste, musulmani, finiani, venditori di tappeti persiani, dame di San Vincenzo, armadilli, zanzare, farfalle. Che io, come tutti quelli un po' così, non sono da temere, non sono pericoloso, sono solo me stesso. Basta, basta, basta con questa musica. Basta, basta, che stavo dicendo? Basta con questa musica. No, no, no, no, no. Queste, no, no, non sono per il meteorismo. Sono sicura. Sono sicurissima. Secondo me è stato un rumeno. Stupendo. Da quando è iniziato questo flusso migratorio verso l'Italia, la criminalità in Romania è diminuita del 60%. Io sono terrorizzata. In Italia se ne contano ben 4 milioni! Siamo invasi! Neanche i vostri alieni! Ho fatto mettere le sbarre alle finestre. Al reggiseno, alle mutande! Ma sono entrati lo stesso! E mi hanno sequestrato il cagnolino! Un bastardino! Fuffi! Mi hanno chiesto un riscatto di 4.000 euro! Avesse il pedigree? Pure! 4.000 euro! Non c'è niente, di bastardini sai! Sai quanti me ne compro? Che poi, Fuffi, per fortuna, l'ho trovato nel cassonetto. Povero, puzza ancora. Che stavo dicendo? Ah, sì, i rumeni. Stupendo. Poi sono tornati e hanno stuprato la domestica romena. Che figli. Ma poi hanno stuprato anche a mio marito. E a lui. Gli è pure piaciuto. Adesso vive in Romania. Che stavo dicendo? Ah, peccato. Peccato perché questi rumeni, stupendo, costano veramente poco, eh. Io ho avuto un autista rumeno, stupendo, che con 400 euro guidava la macchina, cucinava e puliva tutta la casa. Era un ragazzo così dotato. È scappato con mia figlia. Si sono anche sposati. Eh sì, però sa, non se la passano male. Lui ha messo su un'impresa edile per cui ristruttura gli appartamenti e dopo 4 mesi li svaligia. E mia figlia rivende la merce rubata al mercatino dell'usato. Che chic! Che stavo dicendo? Dov'è Fuffi? È l'unico che mi fa compagnia. Ma è un cane. Pur di avere qualcuno vicino, frequenterei anche un analfabeta, un troglodita, un extracomunitario. Ah, un rumeno! Stupendo! Ho sentito un rumore. Che viene dal bagno? È l'idraulico. Rumeno. Ma sei un violento, un misogino, un gay, sono solo in casa. Aiuto! Idraulico? Scusi, può venire? Ho una perdita dal termosifone della camera da letto. Venga. No, non si preoccupi. Queste non sono per il meteorismo. Oh sì. No. Che fa? Come si permette? Non mi stringa così. Non sono un rubinetto. Ma che cosa dice? Non è stoppa, sono i miei capelli. Perché? Perché vuole che spenga la luce? Perché? Mi ama? O sono per lei solo un passatempo? Allora giochiamo a risico. Che stavo dicendo? Lo so. Lei è un rumeno. Stupendo. Ma non ne facciamo un problema. Ora sono di buon umore. Ora non più. Ho sete. Mi tolga le mani di dosso. Che fa? Va via. Venga qui. Mi aiuti. Voglio bere. Le trovi? Su, le trovi. Come, che cosa? Le pillole. Ne ho bisogno. Non sono per il meteorismo. Anche i cani soffrono di solitudine. Se non sono coccolati, cadono in depressione. E te credo, tutto il giorno chiuso in casa con quella. Sono un cane bastardo, di colore nero e pelo liscio. Sono stato abbandonato 2 anni fa e sono finito in un canile. Poi sono stato adottato dalla pazza. Stupendo! Che stavo dicendo? Meteorismo. Per lei sono come un figlio. Non può vivere senza di me. Ha detto che non sono un semplice cane, ma un vero compagno che la protegge dalla solitudine. Dalla padella sono finito nella brace. Tutte le settimane mi decolora. Mi ha rivisitato, come dice lei. Mi ha dato un tocco glamour. Questa settimana mi ha fatto la permanente. Mi ha valorizzato. Mi riempie di profumo. Sembra una mignotta. Mi mette tanto di quel profumo che mi schifano pure le secche. Tutti mi accarezzano e dicono che carino sto cane. Ma di che razza è? Pare l'incrocio tra uno sgabello e lo scopino d'accesso. Mi tiene a dieta. E io che faccio? Mangio quello che trovo per strada, come un piccione. Una volta per fame mi sono mangiato un bicchiere di plastica, ma è venuta pure la cagarella. Quando la mia padrona mi porta a fare pupù, ho paura, perché nel mio condominio c'è un cinese e quando lo vedo cammino sempre vicino vicino a lei, perché ho sentito dire che un piatto prelibato dai cinesi è il riso con carne di cane. Infatti la settimana scorsa è scomparsa Valentina, una cagnetta tanto carina. L'hanno rubata i cinesi, sono sicuro, e se la sono magnata. Basta con questi immigrati, non abbiamo bisogno di loro. Spacciano, rubano, stuprano le nostre padrone, se mangiano i loro cani. Basta, non ne possiamo più. Si chiama Valentina, ha 8 anni. È sparita la settimana scorsa, alle 20:30, l'ora di cena. Ho pregato tanto, tanto San Bernardo, ma non ho ancora sue notizie. Valentina porta un collare di perle, con una targhetta con su scritto «Sei il mio biscottino». Gliel'ho regalato io, il giorno del suo compleanno. Per chi l'avesse vista, può contattare il numero 3371-41688. Povera Valentina. Però, pensandoci bene, meglio lei che io. Morsa sua, vita mea. Ma che è sta puzza? Ma che è sta puzza? La sentite? La sentite pure voi, questa puzza? Ma è possibile che Romeo puzza così tanto? Sento puzza pure di vino. I gatti bevono? Strano. Romeo, vieni qua, gatto rognoso, fatti vedere. Non sarà invece quel bastardo di Fuffi? Sicuro è che mi piscia nell'ascensore e quella pazza della padrona? Stupendo, non gli dice niente. Bastardi, bastardi tutti e due. Ma guarda te, guarda chi mi doveva capitare in questo condominio. Cani, gatti, puttane, ricchioni, extracomunitari. Ci manca solo uno zincaro, un negro, un ebreo e siamo a completo. Madonnina, proteggimi. Perché? Perché mi sento così sola tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i santissimi giorni. Mi posso mettere seduta? Bene. Mi chiamo Inviolata Contestabile. Sugna la portanaglia dello stabile situata a via Mazza la Vecchia 4-4. Abito in un seminterrato. Invaso da scarafaggi e isurus. Voi non ci crederete, ma un giorno dal vatre è uscito un coccodrillo. Ma lo sono tenuto. Mi faceva tanta compagnia. In 2 mesi è diventato lungo 6 metri. Poi un giorno, una disattenzione può succedere, ho lasciato la porta di casa aperta e il coccodrillo è uscito po, po, po, po, po, e si è mangiato la figlia degli inquilini del primo piano. Una bambina dispettosa, capricciosa, antipatica, m'è stata sempre qui. Infatti, pure il coccodrillo non l'ha mai digerita. Ma ora Mi sento così sola. Tutti i giorni, tutti i santissimi giorni. Mi sento così sola che mi sono comprata un bonobo. Mi faceva tanta compagnia. È una scimmia pigmea originaria dell'Africa meridionale. Il problema è che tutti i giorni, tutti i santi giorni, pensa solo a una cosa. Appena trova un buco, ce lo fecca dentro. È tutto un fanarte. A casa si è accoppiato con una teiera, con la lavatrice, con la spelapolvere, il fono. Ha trovato la formaggera. Non gli pareva vero. Tutta piena di buchi. Poi, un giorno, una disattenzione può succedere. Ho lasciato il tostapane acceso e il bonobo ce l'ha messo dentro. Tutto il... bruscato, una puzza di wurstel bruciato. Da allora il bonobo era sempre triste e per farlo distrarre l'ho venduto al circo. Così si può esibire tutte le sere e la domenica due volte c'è la pomeridiana. Ma ora mi sento così sola. Tutti i giorni. Cambasono ha comprato un bradipo. Mi faceva tanta compagnia. Ce l'avete presente? È quell'animale peloso, brutto, ma brutto, e cammina lento. Un nervoso. Un giorno gli ho detto: scusa, bradipo, che me prendi per favore un bicchiere d'acqua? È tornato dopo 2 mesi. Decendo. Un bicchiere di che? Desidratata, posso morire. Poi, un giorno, una disattenzione, può succedere. L'ho mandato a fare la spesa. Per attraversare la strada ci ha messo 3 ore. Ce l'aveva quasi fatta. Poi è passato un trattore. Brum. E il bradipo. Oh oh. Ma ora. Mi sento così sola. Tutti i giorni. Cambasono ha comprato un tirannosaurus. Mi faceva tanta compagnia. L'ho chiamato come la lavatrice. Rex. È l'unico esemplare rimasto sulla terra. Eppure l'unico vegetariano. Infatti si è mangiato il giardiniere. Poi un giorno. Una disattenzione, può succedere. L'ho portato al parco per fare la pipì e con una pesciata ha annegato l'amministratore. Non tutti i mali vengono per nuocere. Così il povero Tyrannosaurus è stato abbattuto. C'ero così affezionata che l'ho fatto imbalsamare. Adesso lo tengo a casa, in salotto, vicino alla TV. Bedu, Tyrannosaurus mio, bedu. Lo potete visitare tutti i giorni, tutti i santissimi giorni, dalle 10 alle 18. Il biglietto è di 7 euro per gli adulti, 5 per i bambini. Solo 3 euro per la vedova, del giardiniere e dell'amministratore. Ma ora, mi sento così sola tutti i giorni, tutti i santissimi giorni. Madonnina, proteggimi tu. Lo posso dire? Non ce la faccio più. Sto qua, tutta sola, e potrebbe succedermi qualsiasi cosa. Una mutanda è caduta dal secondo piano e l'ho tenuta in testa per 3 giorni. Non se n'è accorto nessuno. Sapete come mi chiamano nel quartiere? La Madonna della mutanda. Pensa tu se invece mi capita il pazzo che ha sfregiato la pietà di Michelangelo. Potrebbe agire indisturbato, quel fio della mignotta. Oh, Gesù, perdonami. Sono una peccatrice, aiutami tu. Lo posso dire? Non ce la faccio più. Voglio una campana di cristallo per essere protetta. Ce l'hanno tutte, anche la Madonna di Czestochowa. La conoscete? La Madonna polacca. Quella negra. Oh, Gesù, perdonami, sono una peccatrice, aiutami tu. E poi scusate, non ho capito. La Madonna del Rosario l'hanno messa su un piedistallo di oro zecchino. Quell'altra, la Madonna della Salute, è stata restaurata perché è esposta da anni alle intemperie. Adesso pare Carmen Russo. Quell'altra ancora, la Madonna di Pompei, gli hanno comprato la corona tempestata di zaffiri e rubini. E poi dici che te vengono certe madonne. Oh, Gesù, perdonami, sono una peccatrice, aiutami tu. Io invece sto qua, nel giardino di questo condominio, praticamente abbandonata. Faccio del bene, ma non è un lavoro riconosciuto. Guadagna molto di più quello che fa la mummia a Piazza Navona. Lo posso dire? Non ce la faccio più. Io sono beata, ma la mia vita è un inferno. Una volta, lo confesso, mi sono messa pure a piagne. anche se lo fanno tutte, io mi sono vergognata, perché ho la mia dignità, eh. Ma sono venuti i fotografi, mi hanno fotografata, sono uscita pure su Novella 2000. Hanno sfruttato la mia immagine, ma non hanno capito la mia tragedia, il degrado in cui vivevo. Infatti passava il cane e mi pisciava addosso, passava il gatto e mi pisciava addosso, passava il barbone e mi pisciava addosso. Per questo ho pianto, eh? Allora mi sono rivolta alla Madonna di Lourdes. Potentissima, famosa in tutto il mondo. Il giorno dopo, il cane è finito sotto una macchina. Il gatto se lo sono mangiato i cinesi e il barbone, mentre pisciava, gli ho detto: come va? E gli ha preso un infarto. Oh, Gesù, perdonami, sono una peccatrice, aiutami tu. Lo posso dire? Eh? Non ce la faccio più. Mi sono raccomandata anche ai piani alti, ma alti. Ma lui non risponde. Come se non esistesse. Non ti tutela, come i sindacati. Non si fa mai vedere, sta lassù da solo, da un'eternità. Per passare il tempo sperimenta sempre qualcosa di nuovo. Ha un chiodo fisso. La famiglia. Una famiglia normale. Ma perché la mia è una famiglia normale? E la sua? Prima ha inventato la famiglia tradizionale, poi quella allargata, poi la famiglia separata, poi i maschi coi maschi, le femmine con le femmine, i maschi con le travestite, e poi le femmine sono rimaste da sole. Coi cani? Lo posso dire, non ce la faccio più. Per una volta mi piacerebbe fare la Madonnina del presepe. Almeno lavoro 2 settimane. Però pure lei che sfigata, eh? Nella grotta, al freddo e al gelo. Con l'asino e il bue che gli alidano addosso. Un fetore. E il bambinello? Buttato là nella mangiatoia, poverino. Nudo, coperto solo da uno straccetto. Con quel freddo ti guarda, immobile. E te crede congelato? E al suo fianco San Giuseppe, distante, assente. Lo so io perché. Perché le Madonne sono tante, San Giuseppe è uno solo. Hai capito? E poi nel presepe, all'improvviso, da lontano, arrivano i tre re magi, coi turbanti, con gli anelli, gli orecchini, le vesti dorate, preceduti dalla stella cometa. Quando li ho visti, pareva di stare al Gay Pride. Mancava solo Nichi Vendola vestito da pastorella e Bersani da cammello. Lo posso dire? Non ce la faccio più. Se volete farmi l'elemosina, ecco, dovete mettere i soldi qui, nello spacchetto. Insomma, mi trovate a via Casilina, giù in fondo, angolo con via di Torpignattara. Sulla destra c'è un palazzo e al suo interno un cortiletto, buio e umido. Scusate, bisogna essere positivi nella vita, per trasformare il proprio karma. Sì, avete capito bene, se va avanti così divento buddista. Oh, Gesù, perdonami, sono una peccatrice, aiutami tu. Tutti i modi vi aspetto, eh. Vi aspetto a tutti, anche se mi viene a trovare uno solo di voi. Uno solo, solo uno, per me. È già un miracolo. Ciao. Tutti ce l'hanno con me. Tutti. C'è traffico? E porca. Chiude la metro? E porca. Piove? E porca. Voi non vi potete lamentare, perché se piove vi riparate con l'ombrello. Io c'ho l'aureola bucata. Porca. Magari. Ma come faccio a essere porca? Sto qua, sola, e non me posso muovere. Dico che faccio teatro perché per terapia, così, perché parlo dei miei problemi, ecco, così mi risparmio pure i soldi dello psicologo. E tra l'altro voi venite, beh, la gente viene a sentire i miei problemi e paga pure un biglietto, capito? Questo è il colmo, vabbè. come bisavo avevo preparato il papa, però non quello attuale, quello che quello precedente, quello emerito, bravo. Pace e bene. Pace e bene a tutti. E soprattutto tanto bene. Perché se c'è tanto bene, c'è pure tanta pace. Georg, dammi un po' di pene. Sono così abbattuto questa sera. Dio ha voluto che salissi prima nella dimora di Castel Gandolfo con elicottero. Sull'Appia c'è sempre un traffico della Madonna. Poi Dio ha voluto che mi ritirassi nel convento di clausura sul Monte Vaticano in compagnia di tante premurose suorine. Le suorine. Georg, le suorine non mi lasciano mai solo. Sono come zecche. Mi svegliano all'alba per recitare il rosario. Poi mi mettono a dormire al tramonto come gallina. Georg, una suorina la notte passata è venuta dentro mia stanza, ha chiesto benedizione. Io mi sono alzato, lei si è inginocchiata ed io pace e carità, e la suorina e il pene, carità, carità, sorella. Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quanto è inverno. E tu, dal Vangelo secondo Tiziano. Amen. Le suorine mi accusano di essermi dimesso per scandali scoppiati nello stato pontificio. Io rispondo: da ist meine Sache. Fatevi i cazzi vostri. Non sono più papa. Posso dire cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzetto, cazzone. Tiè. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Dal Vangelo secondo i nomadi. Amen. Per fortuna che Georg mi viene a trovare tutte le sante notti e per non farsi vedere da suorine si arrampica su albero, entra da finestra vestito da zorro. Lui è rimasto il mio amorevole segretario. Tutto fare. Nella mia stanza io faccio lavoretto a maglia, lui orienta parabola e vediamo trasmissioni come Un giorno in sacrestia, Conclavissima, il Festival delle novizie. Mi sono dimesso. Francesco, il nuovo papa, è un papa semplice, vicino ai poveri. Io ho anello d'oro, lui di metallo. Io ho croce di rupini, lui di legno. Io ho scarpine di prata, lui forse andrà in giro scalzo. Io ho papa mobile, lui panda mobile. Rubate ai ricchi per dare ai poveri. Dal Vangelo secondo Robin Hood. Amen. È più facile che un cammello si buchi una gobba con un ago diventando un trometario che un ricco diventi una cruna. Tu sei ricco e ti tirano le pietre. Tu non sei ricco e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai e dunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai. Dal Vangelo secondo Antoine. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.